noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Get a good feeling, yeah. In largo Dybala, controlla, può rientrare sul sinistro, che va a cercare e a trovare il gol del 4-2. Paulo Dybala, tripletta. C'è Fagetto su di lui, tocco dentro, Icardi, 2-1 Inter. Icardi la cambia lui, la cambia il vero 9. Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Belgio, lì dietro, sempre presente nei suoi specchietti fin dalla partenza. Sebastian Vettel in seconda posizione, leader del mondiale. Ecco Zito, avanti, avanti Dovi, avanti Dovi, Dovi c'è, Desmo Dovi ne vince un'altra davanti a Vignales e Rossi. Due italiani sul podio, un'altra volta, Dovizioso, Vignales e Rossi. Suso! Straordinario Suso! 2-1! Dall'anno dentro per Insigne, posizione regolare, Insigne al centro per Mertens! La ribaltata del Napoli con i suoi fenomeni! Prima Zielinski, poi i piccoletti, Insigne per Mertens, 2-1! Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Allora, vi do subito i numeri: 800240024. Siamo qui in diretta fino alle 15, quindi chiamate e prenotatevi, oppure 349-238-6666 per i vostri sms e WhatsApp. Veniamo dalla domenica delle conferme: la conferma che Dovizioso può vincere il mondiale delle moto, la conferma che la Ferrari ormai vale la Mercedes o poco meno, la conferma che in testa al campionato ci sono tutte le grandi a parte la Roma, e anche la conferma che pure con la moviola in campo restiamo un gigantesco bar sport. A proposito, poi parliamo del VAR, di questo strumento messo in discussione dalle parole di Buffon. Voglio sapere che cosa ne pensate. Vi aspetto 800 24 00 24. Carissimo Leo Turrini, ciao. Allora, come andiamo? Buona Monza a tutti, perché abbiamo l'appuntamento immediato nel cuore, il tempio della velocità. Hai parlato in maniera molto giusta, la Ferrari vista in Belgio equivaleva alla Mercedes. Anzi, io adesso ti farò una rivelazione, perché sono in coda sulla Pero Cormano, perché stanno tutti andando verso Monza, hai capito, con qualche giorno di anticipo. Ormai mi pare evidente che questo è un campionato che non si vincerà la domenica ma il sabato, sai? Cioè nelle prove. Sì, perché Vettel ieri ha detto una cosa sacrosanta, cioè se avessi avuto io il vantaggio della pole avrei vinto, nel senso che su una pista come Spa, bellissima, affascinante, durissima, 44 giri, alla fine della fiera c'è se non un secondo tra il re nero e Seb, vuol dire che le macchine vanno fatte uguali. Dovrebbero farla a cronometro. Dovrebbero farla con una cronometro. Allora è necessario che la Ferrari faccia l'ultimo, ennesimo miracolo di questa stagione che nessuno si aspettava, sinceramente, come nessuno si aspettava i 6 punti dell'Inter di Spalletti, no? Delle prime due giornate con Fiorentina e Roma. Devono fare l'ultimo miracolo migliorando in particolare il motore per il giro secco al sabato. Sì, sempre che la Ferrari non perda la battaglia dell'olio con la Mercedes, vedremo in questi giorni. No, guarda lì, adesso bisogna dire una cosa: in Formula 1 da sempre le regole vengono scritte in una maniera, come dire, ostrogota, o se vuoi un paragone più moderno, come se fossero degli algoritmi di Google sofisticatissimi, no? C'è sempre stata una zona grigia. Tutti i progettisti cercano di inventarsi qualche cosa tra le pieghe della normativa, però mi sembra che la Federazione Internazionale sia stata molto chiara, cioè da Monza, a proposito, per stare alla citazione dell'olio che viene bruciato in combustione eccetera, la regola sarà uguale per tutti, quindi io da questo punto di vista non sono spaventato, non credo che la Mercedes possa farcela diciamo così, ignorando la VAR, ecco, in Formula 1, dei controlli. No, no, questo no. Guarda, è un mondiale bellissimo, anzi, non è neanche un mondiale di Formula 1, è uno spasmo permanente. Ah. Sì, facessero qualche sorpasso ogni tanto, così. No, facessero qualche sorpasso ogni tanto. Per fortuna poi c'è la MotoGP. Bravo, però i sorpassi in Formula 1 sono vietati per legge. Qui io non ve lo so spiegare, si tratta probabilmente di una direttiva dell'ONU che risale a circa 30 anni fa. Quest'anno poi con le macchine più larghe, le gomme più larghe, cioè, o sei Raikkonen che fa questo sorpasso pazzesco all'interno di Bottas, no? Ieri, oppure non ne vedi. Oppure sei Ocon e Perez che fanno a botte. Beh, allora, Ocon e Perez, io vorrei essere nella testa del capo scuderia di Ocon e Perez. Io, se fossi il capo della Force India, sicuramente imporrei un TSO, trattamento sanitario obbligatorio, a entrambi i piloti, perché questi, se arrivano sulla Pero Cormano, Perez e Ocon fanno una strage, perché no, spero che non siano già nei nostri specchietti retrovisori qui in coda. Lì c'è proprio un problema di relazione tra i due piloti, che non vengono evidentemente aiutati a governare le loro emozioni. No, si detestano cordialmente, perché, sì, ma è pericoloso davvero, sai, per loro stessi e anche per gli altri. Io non voglio pensare a cosa possono combinare questi a Monza su quei rettilinei velocissimi. Poi quando leggi che Ocon mette sui social, perché ormai voi giovani, se non avete i social, vi sentite, insomma, diciamo così, privi di identità, leggo che Ocon scrive: Perez ha tentato due volte di uccidermi. Voglio dire, qui siamo a dei livelli che ci vorrebbe un po' di brumuro, sai, come si faceva il militare, no? Quando noi giovani facevamo il militare. Ma io ho vissuto Senna Prost, altre rivalità così, ma mai, nemmeno nella fase più, diciamo così, aspra e cupa dello scontro, qualcuno di quei duellanti lì si è permesso anche nemmeno lontanamente di far sospettare che il rivale volesse farlo secco. Io spero che la Federazione Internazionale intervenga, insomma, questo sarebbe con o senza VAR molto opportuno. Sì, a proposito di VAR, aspetta, adesso ti voglio far sentire però Arriva Bene, ieri dopo la gara, Arriva Bene. Arrivavamo per essere i non favoriti, ma abbiamo dimostrato, tutti i ragazzi, la macchina ha dimostrato di essere molto buona su un circuito dove tutti dicevano che non eravamo i favoriti. Peccato per Kimi, che ha avuto un po' di problemi con le vibrazioni, però ha fatto un grandissimo sorpasso nella ripartenza. Sebastian ha guidato molto bene, anche lì ci è mancato pochissimo. Questa è un'ottima macchina e tutti, dai piloti alla squadra, tutti quanti siamo impegnati a andare a Monza e far bella figura. Secondo me il finlandese aveva qualche problema anche con gli occhiali, Leo? No, ma sai, con l'età noi anziani abbiamo la tendenza a essere daltonici. Lui quella bandiera gialla l'ha vista verde, però francamente, al di là del fatto che le regole devono essere rispettate, è stata una sanzione assurda, perché la vettura di Verstappen era già fuori dalla pista e Raikkonen non ha creato pericolo per nessuno. Però sai, c'era quella bandiera gialla lì, cioè non è che si può interpretare, Leo. Io adesso, no, ma io non sto, poi non è che ce l'ho con Raikkonen, no, però no, ti dico che secondo me certe volte i commissari di pista esagerano con le precauzioni, perché la monoposto di Verstappen non era parcheggiata in una zona pericolosa. Poi l'ho premesso, siccome io con te, per te Kimi, ho un nervo scoperto, c'era la bandiera gialla e lui doveva rallentare, punto. Quindi io ho detto semplicemente che non mi pare che si trattasse di una situazione tale da richiedere l'esposizione di bandiera gialla, tant'è vero che tutti sono rimasti molto stupiti. Però al di là di questo è un dettaglio, la cosa bellissima, anche senza sorpassi purtroppo, perché dopo tanti anni vediamo un mondiale così tirato tra due macchine diverse. Perché quando Hamilton lottava con Rosberg era comunque tutta una faccenda, era tutta una pastetta di famiglia. Abbiamo meno di un minuto, Leo. Io immagino tu stai godendo per l'Inter. Ma cosa ti devo dire? Sarà l'effetto VAR. Ecco, io l'impressione che ho da tifoso è che non è che la qualità del gioco della banda di Spalletti sia così sofisticata. Spalletti non è un uomo sfortunato, però aver fatto 6 punti dovendo giocare all'Olimpico a Roma è incoraggiante. Poi io, sai, come tutti gli interisti, no? Sono fatalista, quindi me la tirerò da solo ricordando in coda della Piera Corbano che 2 anni fa le prime 5 partite Mancini fece 15 punti e ne aveva 10 di vantaggio sulla Juventus. Non voglio ricordare come ai miei fan nerazzurri quale fu l'epilogo senza VAR. Io ti ricordo che l'anno scorso, giocando contro Chievo e Palermo, l'Inter di punti ne aveva 1 e ti dico, scritto oggi sui giornali inglesi, che De Boer sta per essere licenziato dal Crystal Palace. Ciao Leo! A presto, buona settimana e buona Monza a tutti. Alla prossima, 800 24 00 24. Adesso apriamo la pagina del calcio. Vi aspetto sul VAR. Vi dovete dire se state con Buffon o no, con quello che ha detto sul VAR usato male, che snatura il calcio, che sembra la pallanuoto. Traffico, torniamo subito. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Convocati. Ora 3 uomini in area di rigore, il cross arriva, Belotti si coordina! Wow! Il gallo Belotti segna un gol bellissimo! 1-0! Sì, sì, ha fatto un gran gol, anche se non sta ancora al massimo, ma con quel gol ha fatto capire perché vale comunque 100 milioni. Che meraviglia, la rovesciata di Belotti. Oggi c'è chi ha scritto: nel calcio che cambia fra time out, VAR, moviola e tante altre diavolerie, poi arriva la rovesciata antica di Belotti che ci riporta alle origini del calcio. Carissimo Pier, ciao. Come va? Benissimo, ci riporta anche alle origini, la facciamo fuori il fatto che vinco la schedina, ma avremo altre 36 domeniche per parlarne. Saluto anche Paolo Condò, ciao Paolo. Ciao. Ciao Giovanni, ciao Pier. Allora, non poteva iniziare meglio la settimana che porta Spagna-Italia, che con quella rovesciata lì di Belotti. Pier. Sì, sì. Ah, Pier, vai. Chi volete? Paolo, vai. No. Compagno di golf. Allora, è un grande inizio ed è anche un grande sollievo perché stanno giocando male. Ovviamente, essendo pesante, si mette un po' a entrare in forma, non è come era Pippo Inzaghi che gli bastavano 2 scatti sulla spiaggia per essere già al top della condizione in agosto. E naturalmente, luogo comune che però contiene molte parti di verità, un attaccante ha bisogno di segnare gol così per accelerare al massimo il suo ingresso in forma. E quindi io penso, difatti, dopo il gol, prima aveva giocato male, dopo il gol ha fatto molto meglio. La stessa terza rete di Obi nasce da una sua percussione con dei dribbling, insomma delle cose non banali per un attaccante potente. E quindi bene, meno male che ha segnato questa rete. La missione di Madrid è molto complicata, sì, però se vuoi avere qualche possibilità di portare a casa la pelle con i 3 punti, passa obbligatoriamente per una grande partita di Belotti, per una grande partita di Insigne, per una grande partita di Verratti. Ci metto anche Immobile, che invece ho visto particolarmente bene in queste 2 settimane. Certo, no, Pier? Certo, anche se, e qui lascio la palla a Pier, Ventura, per farli giocare assieme deve studiare un adattamento, perché naturalmente Immobile, Belotti, Insigne non puoi lasciare fuori nessuno di questi tre. Ma 4-3-3 non è stato molto frequentato. No, ma poi soprattutto in una partita come quella, certo, in Spagna, a Madrid, è vero che abbiamo un risultato solo su 3 e quindi a un certo punto dovremmo anche provare ad attaccare, però è anche vero che per caratteristiche io penso che sarà importante provare a infilarsi in qualche eventuale spazio che gli spagnoli potranno concederci, per cui non è una partita nella quale puoi fare grandi esperimenti offensivi, anche se la condizione di Immobile certamente, a parte che non è la condizione Immobile di adesso, perché Immobile viene da un anno straordinario, cioè pure l'anno scorso ha fatto le cose che ha riattaccato la spina dove l'aveva staccata, che non sempre un'operazione banale. Non è un'operazione banale, no, è chiaro che è durissima a Madrid perché abbiamo un risultato su 3 e perché la Spagna comunque è più forte di noi, però sicuramente ci arriviamo con qualche speranza, con qualche segnale molto incoraggiante. La qualità nostra c'è, se guardiamo gli 11, se guardiamo il BBC dietro, se guardiamo Verratti e De Rossi in mezzo al campo, se pensiamo... E qualche carta da giocare ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Poi la famosa cosa che si dice mille volte della partita perfetta, non c'è alcun dubbio. Io penso che se sarà 3-4-3, sarà un 3-4-3 comunque con un terzo esterno offensivo che darà una mano anche in fase di ripiegamento. Penso a un profilo alla Candreva, che non mi ha fatto impazzire l'altra sera in Roma-Inter, però che è uno che comunque il suo lo dà sempre e che ha le due fasi, come si dice, no? Quindi può darti una mano anche in fase di non possesso. Abbiamo una settimana per parlarne e lo facciamo, così come abbiamo ancora 3 giorni e mezzo di mercato. Do rapidamente 3-4 notizie, gli aggiornamenti proprio delle ultime ore. Accordo fatto tra Roma e Samp per Schick, operazione da 40 milioni di euro complessivi, prestito con obbligo di riscatto. C'è stata la lettera appello di Spinazzola su uno dei social network, ha scritto: mi spiace se qualcuno si sente offeso, amo l'Atalanta ma lasciatemi seguire il sogno di tornare alla Juventus, vediamo come andrà a finire. Poi girano le foto. Posso dirti una cosa al volo? Questo secondo me è una presa di posizione che in qualche modo fa anche epoca, no? Non voglio esagerare, però spesso i calciatori sono abituati a farsi dire di tutto di più, e sappiamo anche spesso che i calciatori hanno dei comportamenti, l'abbiamo detto, diciamo al limite, non particolarmente corretti, i famosi certificati medici, in certi casi la mancanza di gratitudine per le squadre che li hanno lanciati. Però questo post che invito le persone a guardare su Instagram di Spinazzola, secondo me è molto interessante, ne parleremo anche a Tiki Taka stasera, perché in qualche modo ribalta la questione e ci porta, fa sì che ci si metta nei panni di un ragazzo che certamente non ha niente contro l'Atalanta e deve essere grato all'Atalanta e a Gasperini per quello che gli ha dato in questi anni, ma che come tutte le persone del mondo ambisce a fare delle cose belle, come può succedere a me, a Paolo, a te, a qualsiasi persona in qualsiasi lavoro. I commercialisti vogliono conquistare nuovi clienti importanti. Sì, io credo però, Pier, so che sono poco romantico, che il 28 agosto sia un po' tardi per la mozione, no, dei sentimenti. Ci sono anche i diritti dei club, estendo anche al Napoli, alla questione Reina. Ma assolutamente, io non dico che adesso l'Atalanta, dopo aver letto il post, deve accontentarlo. Dico che tante volte noi approcciamo queste questioni qui, giustamente, soprattutto dal punto di vista dei tifosi, le approcciamo senza tenere il debito conto i diretti interessati. Poi alcuni comportamenti sono al limite, alcuni comportamenti sono scorretti, alcuni certificati medici sono ridicoli. Meglio questa lettera aperta di tanto altro. Però esiste l'aspetto umano di uno che dice: guardate, io non ho niente contro Bergamo, voglio andare lì perché è normale, perché voglio provare a vincere gli scudetti, perché voglio giocare la Champions. Cioè non è una vergogna, ecco. O perlomeno è un punto di vista che ovviamente confligge con l'affetto e l'amore e la passione dei tifosi dell'Atalanta, però almeno te lo spiega e poi si ragiona, ma si ragiona civilmente. Paolo. Sì, appunto l'hai detto tu, Giovanni. Una cosa è presentare un certificato medico per forzare una situazione, questa è una cosa sommamente disonesta. Invece mandare un messaggio così, che è carico di sensibilità, allora se ne parla. Io che siamo il 28 agosto, questo è un problema. Io direi anche le lacrime di Reina, io sì, io direi che tutte queste cose andavano risolte prima. Per esempio, adesso si legge da un mese che eventualmente l'Atalanta prenderebbe l'Axalt, che è molto bravo e secondo me sarebbe un ottimo acquisto, però a quel punto il Cerino rimane in mano al Genoa, ecco. Quindi si torna sempre a una cosa che dicono tutti, ormai lo dicono tutti, e cioè che il primo agosto il mercato dovrebbe essere chiuso. Ma io ho l'impressione che ci si arriverà, Paolo. Penso anch'io, perché è veramente unanime questa richiesta. Sì, anche perché qualcuno quest'estate ha tirato davvero la corda. L'ultima notizia è che ci sono le foto di Jovetic con la maglia del Monaco. Jovetic che ha spoilerato il finale della vicenda di Mbappé del Paris Saint-Germain, perché si è fatto fotografare con la 10, che era di Mbappé. Quindi sappiamo che il Paris Saint-Germain pagherà il prestito più caro della storia del calcio, cioè prestito Mbappé con obbligo di riscatto a 180 milioni di euro. Io spero che all'UEFA ci sentano, visto che sono sempre stati molto caldi su queste vicende. Ma avremo tempo di parlarne. Mi dite cosa pensate del fatto che il campionato, dopo 2 giornate, ha in testa le 4 che quasi tutti mettevano in griglia davanti a tutti, davanti anche alle romane, quindi Juve, Napoli, Milan e Inter? Paolo. Noi parlavamo di 5 squadre che non possono essere, perché c'è stato uno scontro diretto. Se tu guardi Roma-Inter, però, se riguardi Roma-Inter, vedi come veramente il risultato è stato in bilico, come la pallina di match ball, no? In bilico. Sulla rete poteva andare da una parte o dall'altra in base a mille considerazioni, e quindi il pronostico è stato rispettato. Da una parte mi aspetto un campionato ancora più totalizzante per quanto riguarda le prime in classifica rispetto all'anno scorso. L'anno scorso tutti o quasi hanno battuto i loro record di punti. Quest'anno faranno ancora più punti le prime 5, però io spero che sia un campionato a 5, a differenza degli anni passati. Insomma, 3 anni fa non ci fu campionato. L'anno scorso comunque l'ha vinto la Juventus, ma con 4 punti di vantaggio, anche se in frenata controllata. Arrivandoci quest'anno, secondo me, di queste 5 squadre io penso che almeno 3 potranno arrivare alle ultime 10 giornate di campionato con delle speranze. Sì, scrive un amico, Pier, che Milan-Cagliari è stato in bilico. Concordo, secondo me ieri sera abbiamo avuto la conferma che Montella avrà parecchio da lavorare, il che non significa che non ci siano le potenzialità, anzi io continuo a vederla dentro le prime 4. Sì, a me sembra che, però mi posso tranquillamente sbagliare, mi sembra che il lavoro di Spalletti sia più facilmente avviato rispetto a quello di Montella. Cioè Montella ha una vera e propria rivoluzione tecnica, Spalletti è riuscito già a dare un equilibrio con pochi innesti. Cioè paradossalmente la forza splendente del mercato del Milan in questi primi mesi soprattutto significa anche avere più cose da fare, più cose da sistemare, più meccanismi da mettere dentro, ed è abbastanza sorprendente, se vuoi, che poi alla fine ieri il Milan abbia vinto grazie a Cutrone Suso, che non sono esattamente due acquisti di quest'estate, due giocatori. Intanto sono due che rischiano di non essere titolari. Appunto, quindi voglio dire, al momento il paradosso è no, che Suso però non esce mai. Suso sì, anche Suso non esce mai. Suso non esce mai, ma se fai il 3-5-2. No, ma tutti e due avranno un problema di abbondanza. Cutrone ovviamente è il grande outsider, il grande exploit di questa estate. Suso è un giocatore sicuramente più avanti nelle gerarchie, ma è anche un giocatore che avrà tanta concorrenza perché a Milan sono tanti, quindi l'Inter da questo punto di vista mi sembra che abbia una strada un pochino più semplice, proprio perché paradossalmente perché ha fatto meno mercato, ha sistemato le 3-4 cose che doveva sistemare, e poi per il resto c'è il fattore Luciano Spalletti e il fattore Icardi, che mi sembra oggettivamente in una condizione e in una, ormai come dicevamo anche la settimana scorsa, ormai a un livello di maturità tale, dopo qualche polemica, dopo qualche errore sui social network, dopo le questioni di cuore, le ingerenze, eccetera, la questione della fascia capitano, oggi mi sembra diventato uomo, mi sembra diventato leader vero, probabilmente lo era anche prima, ma insomma comunque stiamo parlando di un ragazzo del 93, mi sembra che sia arrivato a quel grado di maturazione per essere un leader non solo tecnico ma anche di personalità di questa squadra. Resto convinto che continuerà a far discutere. Siamo prima della borsa, allora io ringrazio Paolo Condò, a cui risparmio la guerra del VAR. Ciao Paolo, alla prossima. No, però ho visto che tra gli ospiti oggi c'è l'ex arbitro Marelli. Sì. Ecco, ho visto sul suo blog la spiegazione, nulla di più chiaro di quello che ha scritto Marelli, nel suo blog. È veramente di una chiarezza estrema, mi ha chiarito tutti i dubbi. Bravissimo, un ottimo ospite. Hai capito. Arriva dopo la borsa, grazie Paolo. Ciao. Oh, dicevo, la guerra del VAR, Pier, te ne leggo qualcuno. Allora, la VAR è stata creata per fermare il dominio della Juventus, ma non ci riusciranno. Buffon non è d'accordo con la VAR perché la sua Juventus ha incassato 2 rigori in 2 partite. Questa è Manuela. La VAR non funziona quando giocano le milanesi. Insomma, ma l'avevamo previsto, che non avremmo smesso di parlare di cartelli, arbitri. Tra le varie cose ironiche c'è un cartello con i cartelli all'inizio all'ingresso della città, Milano comune devarizzato, ovviamente è ironia, però ci sono tante cose da dire, le diciamo adesso dopo. Assolutamente. 800 24 00 24, vi aspettiamo. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Dai, affrontiamo, Pier, il mostro del VAR e di tutto quello che sta scatenando. Allora, faccio sintesi delle centinaia di messaggi che stanno arrivando, 349-238-6666, sms e whatsapp. La sintesi è: il VAR viene attivato solo con la Juventus, si vuole fermare la Juventus. non viene attivato con le milanesi che hanno bisogno di entrare in Champions. Qui siamo veramente alla dietrologia peggiore. Però vi faccio sentire le parole di Buffon di sabato, perché da lì partiamo. Una partita come quella di oggi, secondo me, è una partita da zero rigori. I contatti nel calcio ci sono, e non vuol dire che ogni contatto è un rigore. E lo dico dandomi la zappa sui piedi, perché io faccio parte di una squadra forte e le squadre forti attaccano molto. E noi l'anno scorso abbiamo avuto 3 rigori a favore in 38 partite. E se facciamo questo uso della VAR, vuol dire che noi quest'anno ne avremo 55. E secondo me mi sembra una follia. Cioè, liberiamo veramente gli arbitri dal mostro. Eccolo qui, Buffon. Adesso arriva anche Luca Marelli, così gli giriamo alcune delle domande che ci state facendo. 800240024, Giovanni. Buongiorno, capito. Vai. Giusto a fagiolo, come si direbbe. Voglio parlare, penso che ti dite qualcosa di interessante. Io non voglio essere tirato dall'accento, sono tifosista della Juventus. Quando parla Buffon, per me è come se fosse un dio, sono pure ateo, quindi per me sì, è l'unico dio. Insomma, quando parla Buffon, però, ascolti. Dai. Alla stessa stregua, però, voglio dire, se voglio andare in spiaggia portando il pelo della Juventus senza rischiare di criticare ogni 5 minuti. Vengo al punto. Se hanno messo la VAR, Buffon e noi della Juventus dobbiamo essere gli ultimi a lamentarci, perché purtroppo la dietrologia in Italia si spreca. Quindi facciamo parlare gli altri. Noi dobbiamo sottostare alla VAR. Io penso che alla fine ci avvantaggerà sicuramente a noi, perché vinceremo comunque. Però noi della Juventus, non perché abbiamo rubato mai o perché posso favorire la Juventus, ma noi dobbiamo essere quelli che non dobbiamo parlare, secondo me. Perché se Buffon parla proprio lui, si attira tutta l'Italia contro, e fanno pure bene, secondo me. Perché io quando vado in spiaggia porto il tiro della Juventus. Sì, hai qualche problema. Questo l'abbiamo capito, Pier. Che poi è un po' la tesi quella di tutto sport, no? Che la VAR toglie gli alibi, soprattutto a quelli che perdono. Sì, io, sai, abbiamo parlato già lungamente ieri, ne parliamo anche stasera di Italia, perché ormai è il tema più discusso in tutti i bar e i bar d'Italia. Secondo me il bicchiere è sempre mezzo pieno, ci sono errori anche in questa giornata che sono stati corretti. Si alza l'asticella e si alza quindi l'idea nei tifosi e nei diretti interessati che l'arbitraggio si avvicini alla perfezione. Adesso sentiremo Marelli, che fa bene a sottolineare che non è così. Esatto, che non è la moviola in campo, che non è la PlayStation, dove comunque più o meno l'arbitraggio è fatto da computer. Anzi, addirittura per renderlo più reale, qualche volta viene introdotto l'errore, no? Del computer, perché per renderlo più simile alla natura umana. Però è ovvio che adesso gli errori pesano di più. Certo. Sono anche più difficili da accettare. Alessandro, certo. Da Milano, Alessandro. Sì, buongiorno, grazie per l'opportunità. Vai. Ma io dico solo una cosa, a parte le proporzioni di Buffon, che non riesco tanto a capire, ma insomma è comprensibile, perché hai detto che ha comprato il diploma, quindi in matematica. Alessandro, cominciamo malissimo. Comunque, per quanto riguarda la VAR, è esagerato. Vediamo di dire qualcosa di più interessante. Ecco, tornando alla VAR, la VAR è comunque una cosa che secondo me è in via di rodaggio e ci sono sì dei problemi, però nel complesso è una cosa positiva, che ne dica il signor Buffon. Ma io credo che Buffon non abbia detto il contrario, cioè Buffon ha detto usata così non va, va usata con parsimonia e sarà uno strumento interessante e importante. Luca Marelli, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Il punto è lì, tu lo stai dicendo, sì. Cioè non stiamo parlando della moviola in campo, ma se l'aspettativa diventa quella, poi si comprendono tante perplessità. Assolutamente. Il problema è che è stata spiegata male, forse sarebbe stato necessario un minimo di informazione in più, partendo con un certo anticipo, non il giorno prima dell'esordio ufficiale della prima giornata di campionato. Questo è quello che penso. Per quanto riguarda l'utilizzo di queste prime due giornate, il concetto fondamentale che ho ripetuto tante volte, che continuerò a ripetere, è che la VAR non è una moviola. Per fare un esempio a tutti, così almeno magari ci riusciamo a capirci un po' meglio. L'episodio Bonucci Joao Pedro è un episodio da moviola, non da VAR. Perché comunque c'è un'interpretazione dell'arbitro che non ha mai perso il controllo dell'azione, cioè lui ha valutato quello che è stato il contatto tra Bonucci e Joao Pedro e l'ha valutato regolare. Probabilmente c'è qualche dubbio, l'aveva anche lui, però non si tratta di un chiaro errore. Che vale anche per Skriniar, Perotti la sera prima. Sì, esatto, anche quello è un'interpretazione, perché l'arbitro non ha mai perso il controllo, cioè se la VAR fosse intervenuta in quegli episodi non staremmo più parlando di protocollo VAR, ma protocollo Moviola, che non è. Sì, il problema, Pier, il problema è che se poi l'aspettativa è che si vanno a pescare dei rigori televisivi senza stare a citarli. Io sono d'accordo con Luca che il problema principale sia di comunicazione, però il problema sta anche nell'uniformità, nel senso che è vero che alcuni episodi, anche l'episodio di Roma, l'episodio della Moviola e non da VAR, nel senso che una valutazione l'arbitro la dà, ed è una valutazione che poi ci accorgiamo non essere corretta, però la dà, non si può dire che lui non veda l'episodio, non se ne renda conto. Però poi in altre situazioni, anche banalmente il rigore di Juve-Cagliari della prima giornata, invece c'è questo tipo di intervento che va a modificare. Cioè è molto, noi uno dei problemi tra virgolette del calcio, e anche il bello del calcio, è la discrezionalità arbitrale, no? L'abbiamo detto mille volte. Adesso mi sembra che questa discrezionalità rimanga e in certi casi faccia ancora più rumore quando rimane, perché uno dice ma perché non è andato a rivedere, perché l'arbitro di Roma-Inter non è andato a rivedere, perché Tagliavento adesso non è che ce l'ho con l'Inter, perché Tagliavento non è andato a vedere, però il paradosso è che probabilmente Inter-Fiorentina si può non dare il rigore, per carità, il paradosso è che probabilmente lì è stato usato il VAR esattamente per come è stato pensato. Io interpreto Luca Marelli, interpreto Luca Marelli, e allora poi cioè la Il problema è questo, che per quanto riguarda Roma-Inter probabilmente la valutazione è stata fatta dall'arbitro, i VAR non hanno riscontrato un chiaro errore e hanno lasciato correre. Ma allora c'è un chiaro errore lì? Secondo me sì, quindi però il problema sì, ma attenzione, non stiamo dicendo che l'utilizzazione fino adesso sia stata perfetta, assolutamente, qualche errore c'è stato, perché altrimenti se io dicessi che è stata utilizzata perfettamente in queste due giornate sarei disonesto e non lo sono. Però per dirvi, la differenza fra l'episodio di Roma e quello di Inter-Fiorentina è molto evidente, perché quello di Inter-Fiorentina è un grave errore a mio parere, perché Tagliamento non ha mai visto quel contatto, perché stava seguendo il pallone che era sulla sinistra, mentre invece in Roma-Inter l'arbitro Irrati ha seguito l'azione. Cioè è più spiegabile la mancanza di intervento della VAR a Roma rispetto a quello qui di Milano. Non è un caso che anche Rizzoli l'ha detto, ha detto che avrebbe fatto meglio rivederlo. Certo, poi oggi abbiamo letto che gli arbitri se la sono un po' presa con le parole di Buffon. Tu che conosci l'ambiente, guarda, Luca? Guarda, ti dico questo, da arbitro sono rimasto stupito perché non ho capito quello che ha detto, perché sostanzialmente con la dichiarazione che ha fatto ha significato che lui non ha ben capito che cosa sia la VAR, anche lui non ha capito perfettamente, perché gli episodi di Genoa sono due episodi che sono totalmente sfuggiti all'attenzione dell'arbitro, perché il fallo di mano è invisibile, anche noi ce ne siamo accorti al terzo replay. Per quanto riguarda il rigore del Genoa, lasciando da perdere per un attimo il fuorigioco di Galabinov, è un episodio che un arbitro non vede in campo, sembra assurdo ma è così. Sì, però io aspetto la prima volta che verrà dato un rigore su una trattenuta su un calcio d'angolo, faccio una delle fattispecie dove l'arbitro non ha mille occhi e sicuramente qualcosa si può perdere, da lì in poi tutti gli angoli vanno rivisti. Cioè ragazzi, io quello che voglio dire è che secondo me non succederà. La confusione, ragazzi, è c'è confusione. La confusione c'è nell'applicazione di questo strumento, perché c'è chi l'applica troppo e chi l'applica poco. Per me, io sono favorevole come spirito al VAR e sono convinto che alla fine saranno più le situazioni risolte di quelle non risolte. Però io, sai come la penso? Per me esiste un metro arbitrale che è la sensibilità nel valutare gli episodi. Io avrei fatto il VAR sulle questioni metriche, o al limite lo avrei fatto a chiamata, dando la possibilità eventualmente con un numero contingentato di interventi agli allenatori di vedere qualcosa. Luigi, posso fare una domanda? Sì. Tu sai esattamente cosa contiene il protocollo VAR? Beh, l'ho letto, l'ho studiato, adesso No, non ti sto dicendo che non hai studiato, ci mancherebbe altro. Ti sto dicendo un altro aspetto. Il protocollo VAR non è pubblico. E questo è il problema. Cioè quello che ho sempre detto è che la spiegazione di questo strumento è stata fatta male, perché però non c'è stata divulgazione, Rosetti e gli altri. Sì, però capisci che spiegare in due ore è diverso da, certo, vedere direttamente 67 pagine di protocollo. No, no, ma sicuramente. Sicuramente io, guarda, ti dico, la cosa è per me rimane dal punto di vista mediatico, quello che sento dire dalle persone per strada, dai tifosi negli stadi. La sensazione è quella che siccome oggi, fortunatamente, tanti errori sono corretti grazie al VAR, quando non li correggi il tifoso si incazza di più. Certo, perché fa fatica ad accettare. Perché fa fatica ad accettare che il miglior arbitro italiano, Orsato, in una situazione come quella, cito questo episodio, ma lo stesso discorso riguarda Genoa-Juve, dove c'è una situazione di offside che è ancora più indiscutibile, perché quella è solare, quello è un fatto metrico, lì metti il righello e vedi che è oltre. Su Roma-Inter il rigore c'è, se vuoi è un pochino più a interpretazione, ma c'è. E fai fatica a pensare che il miglior arbitro italiano, con l'utilizzo delle immagini, su una roba del genere non dica nemmeno all'arbitro vattela a rivedere. Abbiamo modo e tempo di parlarne, perché è il tema, è il tema di questi mesi. Adesso però abbiamo il traffico. Io ringrazio Luca Marelli, ciao Luca. A voi, grazie, ciao. Alla prossima, saluto anche te Pier, perché poi passiamo a Dovizioso e alla domenica della Ducati. Ascolto, grande Dovi. Ciao Pier. Tipo per Dovi in questo mondiale, perché mi sembra hai tradito Valentino Rossi. No, aspetta, però, tradito, ne ha vinti tanti, adesso dai, è il momento di Dovi. Traffico, ciao Pier. Ciao. I love this game. Tutti convocati. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Tutti convocati. No, l'ho anche dichiarato, non sono uno che nasconde tanti segreti, quindi l'ho dichiarato già dall'anno scorso, quest'anno, sono piccolissime cose, però piccole cose fanno una gran differenza quando sei a questi livelli. Io mi sono emozionato ieri per la gara di Dovizioso. Roberto Ungaro, ciao. Ciao Giovanni. Saluto anche Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Ciao. Oh, mi ha molto Paolo colpito questa cosa che ha detto ieri Dovizioso. Io partirei da qui. Questo successo dice che anche noi siamo in lotta al 100% per il campionato. Fin qui c'era qualche dubbio, adesso però i dubbi non ci sono più. Io credo che sia la sintesi giusta, no Paolo? Sì, in effetti, onestamente, io ho cominciato a pensarlo già in Austria, però è vero che vincere in questo modo a Silverstone è un circuito che non ci ha mai... non è mai stato così favorevole a Ducati, mentre invece l'Austria ovviamente l'anno scorso aveva visto la nostra doppietta con Iannone Dovizioso, ci ha dato la convinzione che abbiamo tutto quello che serve per provare a giocarci il mondiale fino all'ultima gara. Non sarà facile perché gli avversari sono Marquez, Rossi e Vignales, e quindi sarà una bella battaglia, però credo che abbiamo tutto, sia dal punto di vista tecnico, ma soprattutto abbiamo un Dovizioso in una forma spettacolare. E poi quando c'è anche la convinzione, quando c'è l'entusiasmo, si dà qualcosa di più, no Paolo? Io sono convinto che ieri avrebbe vinto anche senza l'esplosione del motore Honda di Marquez. Ma sai, questo ovviamente non possiamo dirlo, però sicuramente ha fatto una gara strategicamente perfetta, e quindi io credo che se la sarebbero giocata lui con Marquez e Vignales, probabilmente nell'ultimo giro, e per fortuna per noi, per le nostre coronarie, che non è andata che così. Che ne hai avuto uno in meno. Roby, tra l'altro leggo oggi sulla Gazzetta, Dovizioso solo 39 giri al comando per vincere 4 volte, no? Roberto, quasi è incredibile. Andrea è veramente un pilota pazzesco e ha tirato soprattutto fuori una grinta, perché lui, la sua lucidità e il ragionare è sempre stato il suo punto forte, ma quello che vediamo adesso è un Dovizioso anche aggressivo, che risponde ai sorpassi, insomma non la manda a dire. Ma Paolo, io volevo chiederti una cosa: tu sei un regista, anzi il regista della rossa di lungo corso, tu hai vissuto l'epoca preziosa, hai visto l'arrivo dei tedeschi, la gestione tedesca e poi Gigi. Cos'ha Gigi Dall'Igna di diverso, di speciale? Dove riesce e magari altri invece non erano arrivati? Epoche e situazioni diverse, però Gigi sembra veramente avere la bacchetta magica. Cos'ha di speciale quell'uomo? Beh, come sai, io non ho vissuto appieno la stagione Ducati MotoGP dal 2007 in poi, quantomeno, però devo dirti che conoscevo Gigi quando gestiva il team Aprilia in Superbike, e quindi avevamo avuto modo di incontrarci e a volte anche di scontrarci, perché avevamo dei ruoli diversi, no? Io come responsabile del campionato, lui come rappresentante di questa casa così importante, ma devo dirti che è arrivato in Ducati con la voglia di mettere nel suo palmarès personale un titolo che ancora gli manca, che è il titolo della MotoGP. Io penso che lui, al di là della sua genialità, abbia un metodo di lavoro, una volontà che mette sicuramente alla frusta tutti i ragazzi qui in Ducati Corse, perché devo dirti che lavorano tutti i nostri ingegneri tantissimo, ma quando poi questo lavoro duro paga con questo tipo di risultati, chiaramente diventa tutto più facile. Direi che la forza di Gigi è questa determinazione, questa volontà assoluta di riuscire a portare a casa questo obiettivo, che sarebbe un obiettivo importantissimo per tutti i ducatisti, per l'azienda per lo sport italiano, ma io spero anche per lo sport italiano, perché una casa italiana con un pilota italiano che è in testa al mondiale e sta cercando di giocarselo fino all'ultima gara del campionato, dovrebbe, spero che faccia piacere a tutti. Già sarà una grande emozione a Misano fra due settimane arrivarci da leader del mondiale. Cosa significa? Misano, così come Mugello, sono due appuntamenti importantissimi per noi, perché sono le nostre gare di casa, e quindi arriviamo sempre carichi di emozione e aspettative da parte di tutti, e quindi con una marea di ospiti. E in questo caso, se possibile, avremo un carico di motivazione e anche di tensione in più, perché ci arriviamo, come dici tu, da leader del campionato. Credo che pochi se lo sarebbero aspettato che a metà settembre Ducati e Dovizioso sarebbero stati in testa al mondiale MotoGP. No, abbiamo un minuto scarso. Io voglio chiedere a tutti e due, aspetta Roberto, sintesi, perché poi c'è il GR che incombe, se vi fidate della resa di Valentino Rossi. Vi do 20 secondi a testa, Roberto. Ma Valentino è uno stratega, secondo me bleffa quando dice non mi sento da mondiale. È chiaro che non è competitivo, bisogna vedere se la Yamaha ha risolto del tutto il vincolo come posteriore o la pista di Silverstone gli ha dato questa chance. Misano sarà la cartina tornasole. Ma Paolo, soprattutto devo dirgli che la vittoria di Dovizioso ha messo un po' in ombra il risultato di Lorenzo, perché è arrivato a 3,5 secondi, quindi sta arrivando. Anche Lorenzo. E assolutamente sì, quindi vuol dire che è una Ducati molto più guidabile di quella di un tempo, cioè ha lavorato tantissimo Lorenzo, anche la squadra, però sta arrivando. E allora Paolo, non è tradizione fare giochi di squadra nelle moto, ma saremo di fronte a un precedente? Ci sarà questo bisogno secondo te? E se si avverrà, Paolo, cosa farà? La risposta in un flash però. No, direi di no, non è parte della tradizione delle corse di moto e neanche della nostra. Poi è chiaro che se a due gare dalla fine ci fosse una situazione particolare parleremo con i piloti, ma soprattutto quello che vogliamo è che i piloti Ducati non si ostacolino e non creino situazioni di pericolo tra di loro quando stanno lottando. Poi deve vincere migliore, perché così vuole lo sport. Grazie Paolo Ciabatti. Grazie a voi. Grazie Paolo Ciabatti, grazie anche a te Roberto, torniamo a sentirci. Ciao, noi ci fermiamo qui, io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, da Gianmarco Ferronato in regia. L'appuntamento domani, tradizionale, dopo il GR delle 14. Ciao! Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!